Professor Uljanić. Su Paolo Sarpi, come storico del Concilio di Trento nell'opera di Edino. Alla manifestazione per gli 85 anni di Josef Lorz al Gutenberg Museum di Mainz era presente anche Hubert Jedin. Io parlai in nome degli ex borsisti e dissi, tra l'altro, che essi tentavano di svilupparsi come uomini liberi, non come epigoni, perché nulla vi può essere di più triste per un vero maestro che vedersi contornato o pensarsi continuato da stanchi e sbiaditi ripetitori. Ricordo che a questo punto Hubert Jedin fece ampi segni di assenso che mi ripeté a voce al termine dell'Accademia. In questo spirito desidero accostarmi a Hubert Jedin, nella nostalgia del suo magistero, anche coloro tra noi che non sono stati suoi allievi, in senso stretto, non possono non riconoscersi nell'influenza esercitata dal suo magistero e della sua persona con ammirazione profonda e con vivo rispetto, il che significa anche con atteggiamento critico. Quanto avrei desiderato dire ed esporre con differente discrezione alla sua presenza, si era parlato nel marzo di quest'anno a Bologna di celebrare con un incontro di storici italiani e tedeschi gli 80 anni di Jedin, lo farò ugualmente nel suo ricordo in questo istituto che tanti segni conserva di lui e della sua opera. Non interessa qui una pedissequa ricostruzione degli scritti jediniani dedicati a Paolo Sarpi, ma non sarà fuori luogo sottolineare come lo Jedin abbia rivolto dapprima la sua attenzione al Pallavicino, con una voce nel Lexikon für Theologie und Kirche nel 1935 e che nel 1940 uscì der Quellen Apparat der Konzilsgeschichte Pallavicinos das Papsttum und die Widerlegung Sarpis im Lichte neu erschlossener Archivalien. Paolo Sarpi entra così nella ricerca dello Jedin in una determinata, precisa prospettiva, non come protagonista primario, ma nella particolare angolatura di un contesto rappresentato da un termine del binomio controversia epocale Sarpi-Sforza-Pallavicino. Ciò che interessa lo Jedin è racchiuso in questo interrogativo. Welches sind die Quellen, die ihr benutzt habt? Wo sind bei euch Spuren unbekannten Materials, denen wir nachgehen müssen, ehe die Jagd nach den Quellen als abgeschlossen gelten und die Geschichte des Konzils neu geschrieben werden kann. Questa è la prospettiva. Dei due è il Pallavicino l'autore sul quale lo Jedin maggiormente si sofferma, cosa facilmente comprensibile considerando anche la consistenza delle fonti relative al concilio utilizzate dal Pallavicino e agevolmente identificate. Non si pone neppure lontanamente il quesito se non lo Jedin fosse presente quella simpatia che fa ricercare quasi inconsciamente l'autore da studiare, che tanto spesso permette di cogliere mondi inesplorati, pieghe nascoste, grovigli di problematiche che segnano nel profondo una personalità. Si tratta semplicemente di constatare un fatto. Hubert Jedin si imbatte nel Sarpi perché per chiunque avesse voluto o volesse cimentarsi con l'impresa di una storia del Concilio Tridentino, quell'incontro era obbligato, inevitabile. Per questo non stupisce che il primo saggio dedicato esplicitamente a Paolo Sarpi sia costituito dal terzo capitolo di quel preziosissimo volume pubblicato a Roma nel 1948, che in modo così penetrante e fermentante si inserì nell'orizzonte storiografico italiano. Basti pensare a giudizi espressi su quest'opera da Chabot, da Cantimori, da Maturi, ma per indicare anche la cerchia più ampia in cui Das Consil von Trient era penetrato, io ricordo di averlo visto in mano di Carlo Antoni, che uno storico non era e che ha apprezzato moltissimo questo lavoro di Iedin. Dicevo, è nel terzo capitolo di Das Consil von Trient ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte. È significativo per la segnatura che viene impressa alla Historia sarpiana, appare il titolo Der Gallicanische Angriff und Sarpi. Hubert Iedin, storico del Concilio di Trento, focalizza Paolo Sarpi in quanto estensore della storia del Concilio Tridentino. È in questa ottica, primariamente, prevalentemente, anche se non esclusivamente, che lo Iedin vede, studia, interpreta la personalità del Sarpi e tenta di definirne la valenza religiosa, cercando di cogliere quelle movenze, quegli aspetti che più incisivamente trovano espressione e più da vicino possono far comprendere lo spirito della storia. E ciò, oltre la struttura e la intelaiatura fattuale, che pur diviene oggetto di puntuali riscontri, con atteggiamento peraltro ben diverso dalla compiaciuta confutazione di inesattezze o bugie sarpiane da parte dello Sforza Pallavicino in non pochi momenti della iediniana storia del Concilio di Trento. L'incontro con il Sarpi sembra peraltro essere diverso rispetto a quello maturato dallo Iedin in molte delle sue ricerche biografiche, troppo note perché sia il caso di ricordarle. Eppure, la indagine riesce ad inserire la storia del Sarpi in un tessuto prima di allora intuito dal Rank, toccato con maestria dal Martin, affrontato con una particolare angolatura dal Soliani, sfuggito totalmente al getto, mai svolto in una sequenza di tentativi così organicamente concatenati dal Dumoulin a Jacques Feuille d'Espesse, al Gentillier, al Ranchin, al De Thou, al Richer, a Gillon. La storia sarpiana si inserisce dunque per lo Iedin nella lotta condotta dai callicani contro il concilio e la sua recezione. Il Sarpi avrebbe visto nel gallicanesimo l'unica ancora di salvezza contro il centralismo ecclesiastico. Nella scia dei gallicani politici, il Sarpi avrebbe attaccato nel e con il Concilio di Trento il papato post-tridentino. C'è un'affermazione già presente nel Ranke e prima ancora propria di tutta la polemica romana antisarpiana, ma che non per questo deve essere necessariamente considerata non rispondente, dell'odio smisurato del Sarpi per il papato, le cui ultime radici, cito, difficilmente verranno mai messe a nudo. Ma anche quando la storia è definita un plaidoyer, espressione non raramente ricorrente nello Iedin, non manca lo Iedin di riconoscere che questa opera è un capolavoro sia nell'architettura dell'insieme, sto citando, sia nella precisione della singola espressione. Giudizio netto sulla inattendibilità della storia come tentativo di ricostruzione storiografica, adeguata quindi e fedele all'effettivo svolgersi dei fatti, sulla base di una lettura non sollecitata delle fonti, ma tentativo di superare come taglio di impostazione e di discorso la chiave interpretativa polemico-controversistica. Il giudizio di fondo è analogo a quello fatto proprio dalla Curia Romana sin dai tempi del Sarpi, che permane identico ancora durante il pontificato di Pio XII, i casi di Buffon 1941 e Francescon 1942 lo testimoniano senza ombra di dubbio, ma esso si sviluppa all'interno di un argomentare spoglio di animus confessionale. Lo Iedin ha in qualche modo posto le premesse per una concreta, piena storicizzazione sia della storia, sia anche di riflesso della figura del suo autore in ambito di storiografia, mi si permetta di usare questa ambigua espressione, d'orientamento cattolico, imboccando la strada aperta dal Ranke, a proposito del superamento della controversia Sarpi-Pallavicino nella Geschichte der Päpste. Rifiuta la definizione di razzolature attribuita da Luzio alle ricerche dell'Oeses su eventuali fonti oggi non più esistenti utilizzate dal Sarpi, ma ritiene le indagini sulle fonti sarpiane non concluse e talvolta, anche se eccezionalmente, vedi il discorso del cardinale Schönberg nel dibattito in concistorio del 1538, nella sua storia del concilio lo Iedin si richiama, in contrasto con la tesi di deciso rifiuto proposta da Loeses, al Sarpi come fonte. Dunque, lo Iedin sembra non condannare e non rifiutare in blocco a prioristicamente qualsiasi affermazione del Sarpi. Egli vuol mantenere invece un atteggiamento che vuol essere fondato di volta in volta su di un esame critico. Ma non sempre egli sembra riuscire in questa distaccata, fredda valutazione. Non è possibile qui ripercorrere i volumi della storia del Concilio di Trento, vero Iedin? Per cogliere i momenti diversi, estremamente differenziati, sfumati, che vanno dalla condivisione ammirata di taluni interrogativi posti magistralmente dal Sarpi all'inizio della storia, ai dubbi circa l'attendibilità di altre affermazioni, ai giudizi di manipolazione o semplicemente di invenzione, nella maggior parte dei casi. E ciò senza che lo Iedin, nel respiro ampio dagli orizzonti ariosi della sua narrazione, si lasci mai invischiare in un taglio di risposta che costituisce un fondamentale limite della storia dello Sforza Pallavicino. Ci si può chiedere peraltro se in qualche caso il giudizio globale sulla inattendibilità storiografica del Sarpi non abbia prevalso sulla volontà stessa di un distaccato giudizio perseguita dallo Iedin. Ecco, stavo dunque dicendo che ci si può chiedere se in qualche caso il giudizio globale sulla inattendibilità storiografica del Sarpi non abbia prevalso sulla volontà stessa di un distaccato giudizio perseguita dallo Iedin, sollecitandolo a non approfondire con una certa sistematicità il discorso delle fonti sarpiane. Certo è che lo Iedin non ha dedicato un lavoro specifico, analitico, alle fonti della storia del Sarpi, come ha fatto invece per lo Sforza Pallavicino. Certo, il discorso sulle fonti del Sarpi è tutt'altro che agevole. Il Vivanti ha mostrato in un suo saggio apparso nella Rivista Storica Italiana come sia facile slittare su un simile terreno, come è accaduto in parte allo Eses. Non pochi infatti delle fonti utilizzate dal Sarpi per il secondo libro della storia si ritrovano di peso nel decimo volume del Concilium Tridentino. Si potrà certo discutere sul modo in cui il Sarpi utilizza queste fonti, sulle sue scelte, sui suoi silenzi, su un certo suo procedere apparentemente disinvolto, che va sempre peraltro anche rapportato e al periodo e alla variegata tradizione storiografica classica in cui egli vuole inserirsi. È vero, la narrazione sarpiana si sviluppa in una visione interpretativa unitaria in cui il documento sembra quasi naturalmente inalveato, fuso nella organicità di un'architettura che a primo colpo può destare l'impressione di non essere stata esplicitamente progettata, tanto appare ovvia. Ma è vero anche che del Sarpi si sono più sottolineati gli errori che la aderenza alle fonti. A questa tradizione inaugurata dal Pallavicino non rimane del tutto estraneo, suo malgrado, neppure Loiedin. È senza dubbio pienamente legittimo l'insieme di osservazioni che Loiedin raccoglie nell'ultimo capitolo del secondo volume della sua Storia del Concilio di Trento a proposito del metodo ingiustificabile, cito tra virgolette, utilizzato talvolta dal Sarpi, avere messo insieme materiali diversi facendone una unità fittizia o avere inventato. Un esempio. A proposito del memoriale, in 11 punti, che sarebbe stato presentato, secondo il Sarpi, dai prelati spagnoli il 3 febbraio 47 ai legati, Loiedin si esprime in maniera molto dura, ma pur sorvolando sul fatto che esso è ricordato nel titolo come presentato dai prelati spagnoli anche nel Concilium Tridentinum, nulla dice Loiedin circa la esattezza o meno con cui il Sarpi riporta gli 11 punti. Ogni storico è dipendente dalle fonti che è riuscito a reperire e che può utilizzare. A me sembra che assai raramente Loiedin tenta di collocarsi nella situazione del Sarpi per cercare di comprendere dal di dentro le difficoltà gravissime in cui egli venne a trovarsi e che dovette superare per poter scrivere allora, in quel preciso contesto storico, una storia del Concilio. Forse non è impensabile che al Sarpi siano giunte fonti già all'origine inquinate. Sappiamo anche che egli non ebbe alcuna possibilità di raffrontare o confrontare. Loiedin sa per primo, e lo dice anche in Das Consil von Trient, che gli atti del Concilio erano tenuti strettamente segreti e che ne fu impedita, se si eccettui la intenzione non realizzata di Pio IV, qualsiasi pubblicazione. E ancora è da tener presente la particolare atmosfera, l'insieme delle tradizioni orali, di impressioni dirette, oltre i documenti contenuti nell'archivio segreto della Repubblica Veneta, che poi sono andati distrutti, che il Sarpi poté attingere a Venezia, che era poi un carrefour di informazioni e che era anche un centro di raccolta di informazioni. Ma non è questo un tema a cui sia il caso di dedicare altre parole. La spinta alla storicizzazione che così grandi impulsi ha ricevuto dallo Loiedin richiede che il discorso sulle fonti della storia sarpiana vada continuato, approfondito, oltre le acquisizioni dello stesso Loiedin, che ha infrantosi un pregiudizio confessionale e ha impostato un metodo di approccio positivo in termini magistrali, ma non è andato molto oltre nel lavoro di scavo, perché questa non era la sua intenzione, né egli aveva un suo specifico interesse in questo settore particolare sarpiano. Così che anche la sua valutazione globale della storia sarpiana potrebbe essere soggetta ad attenuazioni e a revisioni, forse anche non marginali. Un altro elemento che vorrei ricordare in questa sede, riservandomi un'analisi più dettagliata per la pubblicazione, riguarda la traslazione del Concilio a Bologna. Essa rappresenta a tal punto, sul piano dei fatti e della stessa valutazione dello Jedin, un accadimento decisivo che egli può scrivere alla fine del capitolo undicesimo del secondo volume della sua storia: senza la traslazione a Bologna del Concilio di Trento, la scissione religiosa tedesca avrebbe potuto avere un altro esito. Si comprende quindi l'importanza che lo Jedin annette giustamente all'accadimento e anche l'insistenza con cui egli sostiene la responsabilità totale dei legati. Non voglio affrontare qui la narrazione dello Jedin nella sua interpretazione dei fatti. Ciò che può essere rilevato in questa sede è come egli giudichi la narrazione fatta a questo proposito dal Sarpi una fandonia, un romanzo già riconosciuto come tale e confutato da Pallavicino, laddove è lo stesso Pallavicino che nella sua storia parla a questo proposito di favola. Il problema è, senza volere andare ad ulteriori fonti, e qui accenno semplicemente ad una dimensione, e cioè se veramente la malattia che era constatata a Trento non fosse stata per caso anche a Bologna, come potrebbe apparire da taluni manoscritti che si trovano nell'Artiginnasio a Bologna. Ma lasciando stare questa informazione, è il tipo di discorso che sembra leggermente forzato per quanto riguarda la traslazione. E anche questa durezza di giudizio nei confronti dell'esposizione del Sarpi, che sembra tradire la volontà di dimostrare qualche cosa. E qui non ho il tempo per prendere le pagine, per leggere insieme la narrazione che è fatta dallo Jedin con delle puntate in avanti e con magari dei ritorni indietro, come in Nota, per esempio. È questa sua onestà intellettuale che lo porta in continuazione a confrontarsi con quanto affermato nel testo, quando dice, per esempio, riconosco in Nota che il fatto di tener celato nella sessione un ordine scritto forse esistente sarebbe benissimo spiegabile secondo la teoria del Sarpi. Ma, aggiunge subito, l'argomento trae la sua forza soltanto in connessione con i rimanenti altri. Ma poi aggiunge nel testo che la sua tesi non può basarsi su prove inoppugnabili, letteralmente, ma offre una spiegazione abbastanza chiara di quanto ci dicono le fonti, non contraddetta da argomenti irrefutabili. Allora ci si può chiedere se veramente, e qui risparmio la lettura del testo che andrebbe analizzato proposizione dietro proposizione, se questo tipo di impostazione sia sufficiente a fondare la definizione di fandonia o di romanzo o di favola che viene attribuita alla narrazione del Salvi. E direi, l'Oiedin sembra qui veramente engagé quando egli scrive in tono molto rigido: a Trento non si è recitata una commedia, ma si è commesso un grave e malaugurato errore. Qui sorgono tutta una serie di punti interrogativi, sia per quanto riguarda la ricostruzione del fatto sul piano semplicemente storiografico, sia per quanto concerne anche questa reiezione totale, perlomeno di una ipotesi. Io capisco sul piano fattuale che Iedin avesse detto: ci troviamo di fronte a questa ipotesi è molto improbabile, ma un conto è questo, un conto è giungere a un giudizio così netto e categorico. Quello della traslazione del Concilio è uno dei punti della storia del Concilio di Trento in cui la così profonda acribia dell'Oiedin sembra vacillare con quel ricorso serrato alla inesistenza di una fonte scritta che sembrerebbe divenire criterio unico di verità. Non sostengo la veridicità della versione sarpiana. Affermo soltanto che le argomentazioni dell'Oiedin sono insufficienti per trattare, come dicevo prima, come fandonia, come romanzo, la narrazione del Sarpi. Ma a parte la convinzione dell'Oiedin che le cose siano andate in un modo e non nell'altro, quello che colpisce, e come accennavo prima, è un certo tipo di apoditticità della affermazione iediniana. Ma passando da esempi singoli alle domande fondamentali che il Sarpi pone all'inizio della sua storia e che lo Iedin riprende all'inizio del secondo volume della sua storia del Concilio di Trento, ci sono alcune osservazioni da fare, dei problemi da porre. Io accennerò semplicemente. La prima osservazione è se Iedin abbia fedelmente riportato le famosissime domande che il Sarpi colloca all'inizio della sua storia, le famose tre proposizioni. Ora, a me pare che per quanto riguarda le domande sarpiane, che lo Iedin riconosce essere poste in modo magistrale, perché ritiene che siano tre autentici interrogativi rivolti alla storia del Concilio di Trento e che anche noi dobbiamo porci, a me pare che ci sia qualche non precisa citazione. Per esempio, laddove il Sarpi parla di autorità dei vescovi e lo Iedin traduce semplicemente con episcopalismo. Ora, episcopalismo è qualcosa di diverso che l'autorità dei vescovi. Episcopalismo significa già inquadrare questa autorità dei vescovi in una prospettiva ben decisa e definita che avrebbe dovuto innanzitutto essere dimostrata per quanto riguarda il Sarpi. Ma per quanto concerne qui le tre domande che vengono poste dal Sarpi, io ritengo che la loro risposta, la risposta data dal Sarpi o dallo Iedin, non spostino assolutamente in nulla quella che è la fattualità della narrazione, implicano semplicemente l'applicazione ai fatti di una certa concezione della Chiesa. E a me pare che nel profondo si dovrebbe arrivare a vedere la concezione della Chiesa che sottende la stessa storia del Concilio di Trento in Yedin ed esaminare la storia, la concezione della Chiesa che sottende la storia del Concilio di Trento di Paolo Sarpi, perché la opposizione vera non è data dalla diversità della narrazione, dalle più o meno evidenti o profonde lacune, ma dal giudizio che sui fatti viene enunciato e che è un giudizio differente nel Sarpi e nello Yedin. Ed è per questo che la storia del Concilio di Trento di Paolo Sarpi non si abbatte con una risposta. Non è riuscito lo Sforza Pallavicino, con il suo lungo elenco di errori, ad abbattere la tesi di fondo e la valutazione della storia del Concilio di Trento di Paolo Sarpi, e devo dire non riesce neanche Yedin. Sul piano della narrazione, sul piano dei fatti, sul piano della documentazione, questo è la storia del Concilio di Trento, ma sul piano delle valutazioni l'opera di Yedin non riesce a scalfire minimamente quello che è il giudizio del Sarpi, perché appunto è la diversità dell'angolazione ecclesiologica che porta all'uno o all'altro giudizio sull'accadimento della storia del Concilio di Trento. È per questo che a mio avviso il discorso polemico, non dello Yedin, nei confronti della storia sarpiana è mal posto. Non si riesce attraverso la filologia ad abbattere il giudizio di fondo che è teologico ed ecclesiologico nel Sarpi. Ma io non vorrei tediare oltre il mio uditorio con tutta una serie di altre osservazioni, dirò semplicemente che lo Yedin afferma anche che il Sarpi non ha visto assolutamente un fatto eclatante, che è quello rappresentato dalla Riforma cattolica. Questo l'abbiamo detto anche 2 anni fa, io ho fatto una relazione sull'aspetto politico della storia del Concilio di Trento di Paolo Sarpi, ho sottolineato anche io questa carenza, che è una carenza che potrebbe essere reale nel discorso sarpiano, ma anche qui si tratta di vedere se per Sarpi quell'accadimento, quel fatto, quel movimento che va sotto il nome di Riforma cattolica fosse nell'angolatura della sua concezione della Chiesa veramente un movimento di riforma oppure non lo fosse. E a me pare che nell'angolatura ecclesiologica di Paolo Sarpi ci siano gli estremi per non riconoscere a questo movimento gli estremi di una riforma cattolica. È per questo motivo, forse, che il Sarpi trascura. Si potrebbe dire, è una concezione della Chiesa che influisce sul modo di fare storia, nessun dubbio. Su questo piano, certamente d'accordo con lo Yedin, ma dico, lo storico ha, perlomeno nella mia prospettiva, ha da rendersi conto, da capire, di cercare di comprendere il perché. Ma dico, il Sarpi vive a Venezia, il Sarpi non ha sentito parlare di Contarini, buon Dio, è fuori discussione, ha conosciuto questo movimento, ha partecipato a Roma alla revisione delle costituzioni dell'Ordine dei Servi di Maria, da rivedere in ordine ai decreti del Concilio di Trento, e dunque ha vissuto in un certo ambiente sia a Venezia che a Roma. Non gli può essere sfuggita tutta una concatenazione di fatti. Dunque, perché questa non va nella storia del Concilio di Trento del Sarpi? Perché egli non riconosce, in effetti, in questo movimento, un movimento di riforma. E che cosa intendeva invece Sarpi per un movimento di riforma? Sarpi intendeva per un movimento di riforma che, scusate, parto dal basso, che i sacerdoti potessero sposarsi, che la comunione sotto le due specie venisse riconosciuta anche ai laici, che il servizio divino venisse fatto in lingua intesa dal popolo, che i vescovi riacquisissero la loro autorità e che venisse abbassata l'autorità del Papa. Questi, direi, sono i punti fondamentali che sono portati avanti dal Sarpi, il quale Sarpi non canonizza la storia. Cioè non basta il diritto dell'esistente per Sarpi per giustificare una coerenza o una omogeneità di questa storia con il codice fondamentale rappresentato dal Vangelo. Egli non idealizza la storia della Chiesa, ma non riesce a riconoscere nel suo periodo, non riesce a riconoscere l'impronta di una vera riforma. Ma stavo dicendo, lo Iedin, nella prefazione a un volume che è edito proprio dell'Istituto Germanico a Roma, Nunziatur Bericht, osserva, in qualche modo mitigando il suo giudizio netto nei confronti di questa dimenticanza del Sarpi e citando Paolo Prodi come un grosso esponente della riforma cattolica, Paolo e il Paleotti, ritenesse alla fine del Cinquecento di essere rimasto quasi unico rappresentante di questo movimento. E allora questo per rendere possibile una comprensione dell'angolatura sarpiana, il quale Sarpi sarebbe stato influenzato da una certa realtà del papato della fine del Cinquecento, inizi del Seicento, ed una certa esperienza, secondo lo Iedin, della riforma cattolica tramontante e non avente più incisività effettiva nella storia. Dicevo, è tutta una serie di grossi problemi quelli che si pongono attraverso la figura del Sarpi, che sono problemi storiografici, ma sono problemi metodologici, sono problemi di fondo, di concezione della storia della Chiesa che sottende la storia del Concilio di Trento stesso. Io direi d'altra parte che nell'arco della esperienza scientifica di Iedin, Paolo Sarpi diventa quasi una meteora. Se si tiene presente il secondo volume della storia del Concilio di Trento di Iedin, cita spessissimo Sarpi. Nel terzo e quarto volume, nelle due parti del quarto volume, Sarpi scompare. Ritorna soltanto alla fine della seconda parte del quarto volume con un modo che non è niente affatto nuovo e che è ripetitivo rispetto a quanto lo Iedin aveva scritto in Das Konzil von Trient del 1948. Si potrebbe forse affermare che man mano che lo Iedin diventa egli lo storico del Concilio di Trento, l'incontro con il Sarpi decresce, interessa sempre più relativamente. E questo conferma che l'incontro con Sarpi da parte dello Iedin è stato casuale, legato dunque a una stesura della storia del Concilio di Trento, e che non si è tradotto al di là di un incontro culturale, ricchissimo, fecondo, ma strumentale alla stesura della storia del Concilio tridentino. Rimane tuttavia, attraverso questa figura, tutta una serie, un nodo di problemi che va affrontato. In ogni caso resta quello che ho già detto all'inizio, che con Iedin, con la sua opera, con i suoi approcci, si porta avanti un metodo storicizzato che permette, proprio in forza anche della sua esperienza, di comportarci con il Sarpi in ambito di storiografia, tra virgolette, cattolica, in modo diverso che nel passato.